è tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo benvenuti a Ristoradio Convento, 2:23 del mattino, sabato 1 settembre 2018, in compagnia di un altro protagonista della serata e di un altro festeggiato, diamo il benvenuto a Omar. Ciao. Ciao Omar, come va? Benissimo. Bene, ti stai divertendo? Un sacco. Tantissimo. Prima volta che vieni qui? Sì. Oh, come è stata? Ma un'esperienza... Addirittura esperienza, già la chiama esperienza, che è importante, è importante. No, molto bello, divertente. Bene, bene, mi fa piacere. E soprattutto però raccontaci il motivo per cui sei qui, che è fondamentalmente la cosa più importante. Allora, io non sapevo di venire qui, è stata una sorpresa. Sì, anche questo. Siamo stati noi, dai. Succede spesso, quindi è normale. Stiamo festeggiando. Il motivo penso che tu lo sappia comunque, no? Certo. Quello sì, il 13 settembre. Ok, quindi tra pochissimo direi che manca una dozzina di giorni, anzi già. Dai, ci stiamo dentro. Già 10 giorni praticamente, perché già siamo già al 2 di settembre. Con chi? Lo so. Anna Maria. Anna Maria, sì. Di Bergamo. Anna Maria, tutto unito. Ah ok, però no, perché sai che hanno primo, secondo nome, no, invece proprio Anna Maria all'anagrafe. Ok, e tu di dove sei? Di Calcinate. Calcinate, che per chiunque non lo sapesse è in provincia di? Provincia di Bergamo. Ah ok, provincia di Bergamo, perfetto. E tra l'altro dovete sapere che penso sia opera loro, Omar è venuto vestito, o meglio, aspetta, intanto è stato ben riconosciuto all'interno del locale perché ha il famoso giubbino catarinfrangente che vedete dovunque in strada, giallo. E un comodissimo e direi freschissimo elmetto che questo è blu, esatto, da carpentiere, che non sto toccando ma immagino bello pesante. Sì, mi sembra bella. Tiene, fuori anche, esatto, cioè. vedi come suona. Omar, è il suo lavoro. Omar, che ti sente l'amoroso domani. Giusto, quindi controlla quello che dici. Sì, senti il suono dell'elmetto da carpentiere. È importante. Ho superato i test, è a norma. Esatto. È a norma, questo per sottolineare comunque la comodità e, come diciamo prima, la freschezza con cui ha dovuto convivere Omar in questa serata. Però mi dicevate fuori onda che fanno parte un po' anche della tua vita questi elementi, questi oggetti. Come mai? È il mio lavoro. Il tuo lavoro, dove lavori? In che ambito lavori? Ma sono carpentiere muratore. Sì, quindi intanto lo stanno spelando perché con una aveva una parrucca lunga, quindi li stanno accorgendo ora dei peli che si sono attaccati. Carpenteria e muratura, no? Sì, carpenteria e muratura. Sì, io lavoro, insomma. Poi lavoro. Quindi Milano, costruzioni, sì. Edilizie soprattutto. Sì, sì, sì. Ok, come va? Cioè, so che non te ne frega nulla di parlare adesso, però il mercato hai ricominciato a girare un po' perché molto. C'è stato un attimino di calo. Oh, per adesso. Fortuna. Tanto lavoro adesso. Bene, ci fa piacere. È lo staccano vista, Roma. Sì, sempre. Lo staccano vista. Duro, lavorare anche oggi, ma... Volevi lavorare anche oggi? Dovevo. Ma non ho voluto. Ah, ok. Ma si vede che già da come ne parla, che è molto appassionato e ci tiene. Lunedì ci pensiamo che... Sì, adesso come... pensiamo a far festa. Come giusto che sia, anche giusto festeggiare, ovviamente. Non sei solo, chiaramente, ho visto che sei accompagnato da amici, credo, non lo so. Amici. Amici, ok. Vai, presentati pure. Io sono Fabio. Io sono Michael. Buonasera a tutti. Ok. Abbiamo organizzato questa serata appunto. Ah, quindi siete gli artefici. Siamo noi, sì, esatto, gli organizzatori dell'evento. Esatto. Però abbiamo fatto prima una gita in cantina, diciamo. Una visita guidata. Ah sì, dove? Sì, da Berlucchi. Berlucchi a... Oddio, cos'è, Franciacorta, no? Sì, esatto. Ok, zona Franciacorta. Bello quello, è una gran bella esperienza. Sì, grandissimi. No, salutiamo la... Federica. Certo, ci mancherebbe. La ragazza che ci ha accompagnato. No, sono bellissime cose. Bravissima e bellissima. Esatto. Sì. Vabbè, questo non l'ha detto Omar, bravissima. L'abbiamo invitata per... Andando ad ascoltare. No, sottolineiamo che Omar ha detto bravissima e gli amici hanno detto bellissima. Esatto. L'abbiamo invitata, ma purtroppo ha declinato l'invito, perciò... Vabbè. Niente, è andata male. Però bella come idea. Sì. Ma sì, ci stava a fare una serata diversa, no? Non me l'aspettavo da loro. Omar merita tanto, anche da parte esatto, nostra, è un amico esatto, da esatto. E la seconda parte, diciamo il secondo tempo, si svolgerà durante il matrimonio. Ah, perché c'è un... c'è già un qualcosa altro c'è di organizzato. Stiamo organizzando qualche scherzo. Quindi... qualcosa. Aiuto. È vero, sai che tanto purtroppo ti tocca. Se lo merita. Addirittura se lo merita. Va bene. Il nostro grande amico merita questo ed altro per quello che... Come è giusto che sia. Immagino non siate soli, però, perché vedo anche sì, gente no, che vi guarda. Vai, ricordiamo anche loro, come è giusto. Esatto, c'è Rasta, Giovanni, Ubra, esatto, Joe, Alessio, Poma, Axel, Dani. Sì, siamo in parecchi, no? Siamo una dosina. Sì, tutta gente della sposa. Della ah, bello. Dico, tutta gente con nomi rassicuranti, tra l'altro, esatto, che sembra un clan. Sì, soprannomi. Insomma, un clan. Siamo in una botte di ferro. Esatto, di gente che mena forte, invece. Gente un po' pericolosa. Addirittura pericolosa. Ho capito. Si fa per dire. Sì, assolutamente. Allora, vai, volete dire qualcosa? Pericoloso. Lui è tosto, me lo ricordo che già... Sì, proprio... ci sta mandando messaggi cifrati che noi non interpreteremo mai. Questo l'ho interpretato, questo l'ho capito. Allora, no, dicevo, volete salutare qualcuno, dire qualcosa? Al di là salutiamo di... la futura sposa, possiamo farlo, certo. Omar, da parte tua. Sì, salutiamo Anna. Sperando che ascolterà questo messaggio. Certo, magari assolutamente online, potrà farlo. Non è anche lei. E complimenti al convento, esatto. Tanta roba. Grazie. Tanta cena, ha mangiato tanto. Bene, come vi ringrazio. E buona disco, raga. Ci sta. Bene, vi ringraziamo, dai. Bene, dai. Speriamo di ospitarvi ancora in altre occasioni ancora. Non lo so, vediamo. È lunga. Vediamo che succede. A volte la vita è imprevedibile. A volte la vita è veramente imprevedibile. Ok, noi ci uniamo invece agli auguri, ai complimenti per Omar e in bocca al lupo, visto che ci siamo. È quasi ora, quindi bisogna cominciare a prepararsi veramente per il 12, no 13, 13, mi raccomando, non lavorare almeno il 13. No, cioè, lavori anche il 13. La mattina, poi alle mezzo. Esatto, alle 3 fa la mezza. Ah, bello, fa la mezza, esatto. Pausa, pranzo. Mezzo giorno, doccia, rinfresco e si sposa. Poi il 14 sono già al lavoro. Esatto, sul cantiere, deve gettare. Operativo. Dopo il 15 sono a Dubai però. Sì, sono degli incastri orari che capisco. Perché difficilmente giovedì, ma finiamo la settimana lavorativa. Esatto, giovedì si sposa, sì. Giovedì lavora, finisce la settimana e va. Sabato parte e per 2 settimane sono perfetto. Dubai, Maurizio. Tutto organizzato alla perfezione. Bravo. Dai, allora in bocca al lupo e ancora buon divertimento, sicuramente lo sarà. Grazie. E buona fortuna per tutto. Ciao Omar, ciao ragazzi, grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao.